9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera, vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Allora, buongiorno cari ascoltatori, vi voglio alternare, oggi non farò le pillole rabbiose perché è una giornata nella quale il tema della puntata deve indurmi a essere calmo, tranquillo, perché siccome non ci capisco e allora devo chiedere a chi viene in trasmissione e a voi nelle vostre telefonate di spiegarmi oggi questa trasmissione di lunedì 17 dicembre, auguri a chi si chiama Olimpia, Santo Olimpia, oggi la dedichiamo a capire quello che è in realtà il mistero insondabile, annunciato ma non ancora spiegato, e che ognuno racconta a modo suo, di come andremo alla fine di questa legislatura. Il Corriere della Sera titola la proposta di Monti per il voto, poi dice non sarà in lista l'ipotesi di un programma da offrire ai partiti. Dice invece Repubblica, la discesa in campo di Monti, il premier tentato da una sua lista. Corriere dice che non sarà in lista, ma Repubblica dice che avrà una sua lista. Poi Repubblica aggiunge monologo elettorale di Berlusconi in TV e bufera, in effetti, ieri pomeriggio a canale 5. Il giornale infatti apre con la proposta di Berlusconi che è, manco a dirlo, niente IMU per tutti. La proposta per la campagna elettorale di un Berlusconi che non si capisce se ci sarà o non ci sarà, ma perché questo dipende da come Monti accoglierà o meno il PDL, pezzi di PDL o chissà che cosa di ex PDL all'interno dell'ombrello elettorale, nel quale se ha ragione il Corriere non sarà in lista, ma se ha ragione Repubblica invece avrà una sua lista. E questo, fermiamoci qua per capirci qualche cosa. Io tento di farvi capire oggi che cosa tra qualche giorno potrebbe avvenire, lo chiediamo ai nostri ospiti che sono degli osservatori. Intanto oggi siamo alle ultime ore per pagare l'IMU, auguri agli italiani che ci capiscono qualcosa. Vi inviterei a diffidare di chi dice che l'IMU si leva, perché non fosse altro che per l'impatto sull'economia italiana nella realtà vera, e che se l'IMU servisse a tenere il più possibile autonomia finanziaria ai comuni, serve, mentre le cose da levare sono, quello che non serve è un IMU ammesso in più perché lo Stato si prenda in più, ma qui bisogna levare l'IRAP e i contributi sociali. Ma questa è la modesta visione di uno che crede che la politica debba occuparsi di cose concrete, misurandone gli effetti che hanno su l'economia reale. Il Messaggero si pone con la sua apertura oggi a metà tra il Corriere della Sera e Repubblica, e dice Monti si tratta sulla lista, Qui fa un passo più avanti, perché il Messaggero fa una ricostruzione secondo la quale il Premier avrebbe avanzato una proposta per il sostegno dei partiti vicini, con una specie di forza equidistante, però si spiega appunto anche sul Messaggero che in ogni caso dopo il voto l'intesa è con il PD. Tutti i quotidiani dicono che si è rotto il feeling tra il capo dello Stato e il Presidente del Consiglio. Tutti i quotidiani, chi più chi meno, La Stampa è forse quello con più evidenza, in prima pagina dedica un approfondimento intitolato Il grande freddo al Quirinale. La Stampa spiega come questo grande freddo, cioè una pagina intera, pagina 3, il rammarico del Quirinale, virgolette, non rovinare l'esperienza del governo tecnico, anche momenti di tensione durante il colloquio al Colle. Secondo la ricostruzione di Federico Geremica, che notoriamente per chi segue la vicenda è molto vicino agli uomini intorno al capo dello Stato al Quirinale, e quindi bisogna considerare ben informato e autorevole Federico Geremica quando scrive di questi temi. Ecco, Federico Geremica in questa pagina ampia descrive l'amarezza del Presidente della Repubblica che si è chiuso nel suo studio, ecco, alle prese con un filo che mi si era imprigionato intorno alla gamba, l'amarezza del Presidente della Repubblica che nell'incontro con Mario Monti ieri si è chiuso nel suo studio amareggiato senza voler essere disturbato. Perché? Perché c'è un vulnus. Il capo dello Stato è convinto che questa piega, quella politica di Mario Monti, rappresenti un'incrinatura di un rapporto di fiducia, e il rapporto di fiducia era quello tra il capo dello Stato, che ha creato il governo tecnico, che in molti passaggi lo ha difeso anche forzando la procedura, e che invece alla fine si trova inopinatamente un Presidente del Consiglio che farà politica, che non sarà terzo. E la domanda diventa: ricordate il richiamo, il rituale al quale anch'io rimasi perplesso e che criticai esplicitamente quando Napolitano disse no, Monti non si candida, disse, vabbè, ma non è che il capo dello Stato è titolare del diritto di elettorato passivo, no? Del Presidente del Consiglio. E il fatto è che quella battuta era una specie di chi va là, perché adesso il capo dello Stato dice, beh, se tu fai politica io devo nominare un altro governo per gestire le elezioni. Ci sono tanti precedenti, gli anni degli scontri tra democristiani e socialisti, e quindi addirittura si parla di un governo tecnico Schifani, e in questo caso quindi Monti interromperebbe la sua continuità a Palazzo Chigi, non potrebbe contare cioè sul fatto, virgola, che come senatore a vita, lui come senatore a vita non si candida direttamente alle elezioni, tuttavia fa un appello senza lui fare i nomi di chi deve raccoglierlo, in 5 minuti ottiene la risposta di chi lo raccoglie, cioè l'UDC Montezemolo, e non ho capito se qualcuno del PDL, il PDL o pezzi del PDL, più qualcun altro. A quel punto, come se fosse una nascita misteriosa e non già precontrattata, come è evidente, ma non viene annunciata come tale da molti per non sporcargli la faccia, però in realtà stanno trattando, dicono i giornali, a quel punto nasce dal nulla, ma lo schema per il quale Monti rimaneva alla guida del governo tecnico per il solo fatto che non si candida, dovrebbe incrinarsi, perché a quel punto lui deve invece dimettersi e c'è un governo tecnico, che tecnico davvero, a quel punto tecnico per gestire le elezioni, che gli subentra. E a quel punto però si apre una partita, perché se poi Berlusconi, perdonatemi, se Bersani prende, come dicono nei sondaggi, comunque molti più voti, difficile che Monti a quel punto, se esce dalla stanza del premiership per questo suo passo politico adesso e non resta in carica, diventa poi premier davvero. Per questo, dicono i giornali, farebbe appunto in ogni caso un patto con il PD. Ma capite che è una procedura iperbizantina, perché la mia modestissima opinione è che su questo, non sul diritto di disporre della candidatura o meno a far politica di Monti, perché su quello decide Monti, ma forse Monti dovrebbe decidersi, non farlo all'ultimo secondo e dire mi sono deciso per fare politica, questo è il mio coso, è quello che penso di fare, però dicendolo, non dicendo si tratta di preservare il rigore, perché il rigore delle tasse di questo anno è sbagliato. Il rigore di abbattimento del debito pubblico con attivi di Stato da cedere sarebbe giusto, ma non c'è stato. Lo dicesse, allora a quel punto c'è un'offerta politica che nascerebbe su base di chiarezza. Così a me sembra una cosa tra l'incomprensibile e il bizantino andante. Però, per carità, sicuramente sono io che non capisco. Allora, iniziamo innanzitutto con Mario Aiello del Messaggero a capire come la pensa. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ci aiuti a capire, Mario, secondo te, tra tante tutte queste ipotesi, qual è quella che poi prenderà forma? Davvero quella di un Mario Monti che non scende direttamente, fa finta di lanciare un appello non sapendo chi lo accoglie, ma in realtà si sa perfettamente e stanno già trattando la lista, ma a quel punto davvero il Quirinale poi fa un governo Schifani e a quel punto esce da Palazzo Chigi? E allora se esce da Palazzo Chigi perché c'è un terzo che deve gestire le elezioni, tanto varrebbe non fare tutte queste ipocrisie politiche e dire scendo in campo e faccio un partito mio. Che dici tu? No, io guarda, credo a questa terza ipotesi di cui parlavi te, non ci credo molto. Governo Schifani mi sembra abbastanza fuori dalle cose. Io credo che lui farà una cosa piuttosto vaga, offrirà un'agenda, un simil programma ai partiti, e significa al PD e all'UDC e all'area di centro. Dopodiché chi la vuole raccogliere se la intesta, mette il nome di Monti nelle proprie liste e si va al voto. Una vera e propria discesa in campo di Monti io non la vedo, perché non ne capisco la convenienza per il professore, nel senso che se lui si mette alla guida di una sua propria lista, o comunque si mette alla guida soltanto delle liste federate del centro, che al massimo secondo i sondaggi possono arrivare al 20%, non vedo poi dopo le elezioni come lui possa giocare molto il suo ruolo, perché il suo ruolo è duplice dopo le elezioni: o quello di andare, di essere chiamato a Palazzo Chigi in un caso di pareggio, o quello di andare al Quirinale. Quindi lui si deve tenere aperte entrambe queste due possibilità. È uno schierarsi suo nettissimo gli precluderebbe il rapporto con il PD, che dopo le elezioni sarà fondamentale per i suoi destini. Ho capito. Quindi però, ecco, io non sono d'accordo sulla lettura di Repubblica, sono più, se dobbiamo estremizzare, no, per dobbiamo capirci, bipolarizzare le letture, io sarei più d'accordo con quella del Corriere. Del Corriere, va bene. Quindi per chi è a casa e si è confuso in tutte queste cose, Repubblica propone la discesa in campo di Monti, il premier tentato da una sua lista, mentre invece quella del Corriere, la proposta di Monti per il voto, non sarà in lista, l'ipotesi di programma da offrire ai partiti. E dice Aiello, farà un'offerta ma senza coinvolgersi, perché altrimenti si impasticcia troppo con il PD. Per il PD ricordiamoci che Massimo D'Alema, con l'intervista come al solito diciamo di una abrasiva e urticante chiarezza, lo ha diffidato dal mettersi in campo direttamente Mario Monti, dicendo è meglio che eviti, perché sennò poi con noi sono dolori. Allora, Marco da Milano dell'Espresso, buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno, ciao Oscar. Marco, tu come la vedi invece? Cioè, quale di queste diverse ipotesi? Io sono per la terza via, mi interessa quello che ha scritto sulla stampa oggi, hanno scritto sia Federico Geremicca che Fabio Martini, sì, che danno conto di un incontro al Quirinale andato piuttosto male. Lo abbiamo riassunto ai nostri ascoltatori. Lo scrive Geremicca, mentre Fabio Martini parla di una lista del professore fuori dai partiti, aperta sia a destra, e questo lo sappiamo, la discussione di questi giorni, il PDL, i montiani che cercano di aggrapparsi al senatore Monti in tutti i modi per salvarsi, sia anche a delle forze interne al PD che potrebbero uscire emarginate dalle primarie dei parlamentari e che esprimono una sensibilità molto vicina a quella di Monti. Oh, ma per capirci, Marco, tu pensi che, voglio dire, da gente come Quagliariello nel PDL, per dire, a gente come Ichino del PD improvvisamente fa una lista insieme? Ma no, io non credo questo. Io credo che Monti fa un'iniziativa alla Kadima, cioè una che era là, il partito israeliano di Sharon e di Peres, due capi storici dei conservatori del Likud e dell'Abur della sinistra israeliana, che di fronte a un problema enorme come quello del problema palestinese decisero di mettersi insieme in una formazione nuova. Ora, noi abbiamo un problema enorme, che è quello del declino italiano, e non devo certo dirlo a Oscar Giannino. Allora, le risposte che verranno date in campagna elettorale, quelle che per ora sono sul tavolo, a tutte, per una ragione o per l'altra, appaiono deboli. Certo, quella del PD appare più forte, senz'altro sul piano numerico, basta vedere i sondaggi, basta vedere la partecipazione che hanno messo in campo le primarie, appare senz'altro più solida, ma anche quella non sembra sufficiente, o comunque questa è la valutazione che fa Monti e che fanno alcuni agenti non di poco conto, come la Germania della Merkel, il Vaticano, gli Stati Uniti. Insomma, c'è una comunità internazionale che vive con preoccupazione questo passaggio, e quindi Monti proverà a dare una risposta a questa sensazione diffusa di incompletezza, in altri casi di inadeguatezza e in altri casi ancora di assoluta improponibilità. Penso al Berlusconi che abbiamo visto ieri dalla Barbara D'Urso, delle proposte politiche in campo. Sì, in effetti il Berlusconi che rassicura gli italiani dicendo che si è fidanzato con la Pascale, mi sembra. E poi l'IMU che sparisce, l'IMU. Adesso io, molti mi chiedono, gli ascoltatori, di cosa pensi dell'abolizione dell'IMU. Ragazzi, sentite, un'agenda seria si fa guardando le condizioni del paese e spiegando con un minimo di noia anche come e perché bisogna cominciare da altro, capite? Un paese che ha il record quest'anno di calo della domanda interna -4,4%, calo del reddito disponibile delle famiglie -3,2-3,3%, calo dei consumi -3,6-3,7%, che ha uno stock di investimenti del -25% rispetto al 2007, 29 punti di produzione industriale rispetto al 2007, cioè malgrado c'ha un quarto di economia nazionale, un po' meno di un quarto del PIL che esporta, facendo più valore di quanto aveva 30 punti di volume in più di produzione industriale, ci sono tre quarti invece del paese, la domanda interna è in ginocchio per quello che lo Stato fa, l'unico paese europeo che fa 105 miliardi di aumento fiscale in tre anni per migliorare i conti pubblici, e in questo Tremonti e Monti sono uguali, avete capito come la penso io? Uguali, Monti e Tremonti sono uguali. Adesso poi possiamo raccontare quello che si vuole, il secondo ha una grandissima credibilità internazionale da difendere, ma così facendo l'Italia va a schiantarsi andando avanti solo su questa linea. Allora io penso che un vero cambio di marcia sia dire che ci sia qualcuno che dica che il debito pubblico si abbatte con gli attivi di Stato e non prendendo dovunque ci siano denari. Per questo non mi piace la patrimoniale del PD e credo che sia fondamentalmente sbagliata aggiungerla alla struttura fiscale che c'è già oggi. Per questo ho considerato sbagliato e criminale che noi abbiamo aumentato sia le dirette che le indirette che le patrimoniali, mentre invece negli altri paesi europei si distingueva negli aggravi fiscali tra chi poteva fare input aggiuntivo e difendere l'occupazione. Però questa roba qua non mi sembra che ci sia nel confronto, ma non perché sono intelligente, io evidentemente sono fesso. Quello che conta a questo punto è chi del PDL riesce a entrare in questa offerta che Monti farà in nome della continuità e facendo finta di non sapere chi la raccoglie, quando invece i giornali ci spiegano che il suo sottosegretario 37enne sta trattando i nomi della lista, e poi non si sa se c'è una lista al Senato unita, alla Camera no, separata, unita sia alla Camera che al Senato, non si capisce. E se pezzi del PDL, oltre che l'UDC, perché questo è già chiaro, e la lista di Montezemolo, perché questo è già chiaro, si mettono insieme, e come questa roba si regola con il PD. Però in concreto, che cosa aspettarsi? Voi lo sapete, io non l'ho capito, cioè qual è? Continuare con questa linea di essere l'unico paese dello scassato che prende dovunque fiscalmente, dovunque gli italiani abbiano? Questo è quello che abbiamo avuto nell'ultimo anno, con il più totale rispetto verso il presidente del Consiglio Monti, che ci ha ridato una credibilità che il signor Berlusconi, visto che mi si rimprovera adesso di essere, di considerarlo un caso clinico, io lo considero un caso clinico oramai, aveva totalmente compromesso. Però come si fa i conti poi col PD che diceva patrimoniale, visto che bisogna fare i conti? Io questo non riesco a capirlo. Non riesco a capirlo, tranne che forse la base componibile è tutte le imposte di Monti più la patrimoniale di Fassina e Vendola e Bersani. Benissimo, è una buona proposta questa? Concretamente a me sembra di dover dire no. Però siccome nessuno mi dice se è così o non è così, io veramente non ci capisco niente. Aiello, tu ti aspetti che nell'appello lanciato da Mario Monti ci siano dei distinguo? Se ci sono dei distinguo, come fa a fare un'offerta politica aperta da pezzi del PDL e insieme a pezzi del PD? E quindi forse non ci saranno, però se non ci sono, su quale base poi si prendono dei voti tanto da poter equilibrare la componente che mi sembra attualmente nei sondaggi molto maggioritaria, relativamente maggioritaria, cioè quella del PD? Infatti è esattamente quello che dicevo prima io. Credo che lui faccia un appello piuttosto vago, anzi molto vago, nel segno della continuità di quanto ha fatto finora, cioè rigore, rigore, rigore e crescita, crescita, crescita, ma queste tre ultime crescite di cui ho detto finora non si è capito come si fanno e credo che nell'appello preelettorale di Monti questo nodo, che poi è il nodo più importante, non verrà ancora sciolto. La cosa importante che però io vedo in prospettiva più che spendibile subito nel cemento elettorale è che comunque Monti comincia a rappresentare e già rappresenta una cosa che negli ultimi 20 anni l'Italia non ha mai avuto, cioè un embrione di centrodestra moderato, europeo, liberale, vero. Cioè io credo che siamo all'inizio della fine dell'anomalia italiana, che è quella di non aver avuto una destra decente finora, un centrodestra decente finora. Quanto poi io credo che le elezioni insomma siano già abbastanza decise, nel senso che un mancato accordo tra il PDL e la Lega pregiudica dei premi di maggioranza al Senato e quindi favorisce il fatto che li prendano in certe regioni i Democrat, e quindi si andrà, io credo, a una vittoria annunciata del Partito Democratico più Sella, e credo che questo lo sappia pure Monti. Da qui deriva la vaghezza di quello che io credo sarà il suo appello ai partiti. Si tiene le mani libere, dopodiché nel caso non andasse come ho appena detto, cioè che vince il centro-sinistra, ma si arriva a un mezzo pareggio, lui è la persona giusta da richiamare subito. Quindi tu dici, in ogni caso è una strategia. È la prima persona che verrà chiamata per il Quirinale, cioè non dicono ancora, il PD non dice ancora il nostro candidato al Quirinale è Mario Monti, con questa chiarezza non lo dice ancora e con un'ufficialità totale, perché da una parte c'è Prodi che aspira, insomma, per motivi diciamo interni loro. Però tu dici se fa un'offerta così non troppo precisa eccetera, una strategia win-win, comunque o riequilibro, se non riequilibra va al Quirinale. Che ne pensa? Certo. Che ne pensa da Milano? No, sono abbastanza d'accordo con quello che dice Mario e soprattutto sulla la questione del centrodestra europeo che si sta costruendo. Quello è l'obiettivo ed è la fase finale. Noi però siamo ancora in mezzo al terremoto, siamo ancora in una situazione in cui milioni di elettori cercano una casa politica e non si definiscono né di destra né di sinistra né popolari né socialdemocratici, restano a casa, sono stati disposti a votare Grillo ora probabilmente dopo averlo visto in Azione compose da Dittatorello, da Web, hanno cambiato idea, hanno usato Renzi alle primarie, però poi se ne sono distaccati, magari guardano con simpatia Crosetto, insomma c'è un caos assoluto. Allora penso che in questo senso nella campagna elettorale bisogna dare offerte precise. Quella di Bersani è un'offerta molto precisa, forse troppo precisa, ha un'identità molto chiara, il Partito Socialista Europeo, il riferimento ai progressisti di Francia, di Germania, quell'identità lì. Una certa vaghezza sui programmi, perché la carta di intenti firmata anche da Vendola è generica, in tutte le tribune che ci sono state durante la campagna per le primarie Bersani c'ha questo refrain: cambieremo un po', rifaremo un po', riscriveremo un po' la spesa pubblica, insomma tesa molto a rassicurare. Ora io credo che se Monti scende in campo giocherà da un lato la stessa carta, cioè rassicurare, dare sicurezza, dare solidità, ma anche un cambiamento più spinto sulla sua agenda, dicendo che lui non è riuscito a fare tutto quello che poteva fare perché c'erano i partiti che lo frenavano. Da questo punto di vista è uno strano mix, perché il professore, il pedagogo, ricorderai l'intervista che gli ha fatto Federico Fubini in apertura del libro che raccoglie i testi di Monti sul Corriere della Sera. Lui ha detto: io ho una vocazione pedagogica nei confronti degli italiani, quindi il pedagogo Monti, che però fa anche un appello invece tipicamente populista. E ti segnalo che proprio questa mattina il portavoce di Bersani, Stefano Di Traglia, in un Twitter ha detto: l'appello di Monti è un appello populista, una lista che porta il suo nome, quindi è un curioso mix, il professore che fa appello direttamente al popolo sopra i partiti. Questo è uno scenario del tutto inedito, del tutto inaspettato. Bisogna vedere, naturalmente può darsi pure che non succeda niente nelle prossime ore, però qualche segnale in questa direzione c'è. Io penso anche a quella strana apparizione a Uno Mattina di questo Monti un po' gigione, un po' piacione, con la sciarpa di Teledon che parla del nipotino. Insomma, sta mettendo in campo qualcosa che inizialmente non era preventivato, cioè l'uomo sobrio, l'uomo in grigio, l'uomo che faceva parlare solo i numeri, sta cominciando ad accarezzare l'idea di entrare in politica con un appello direttamente al popolo. Se lo facesse, non sono affatto sicuro che lo farà, perché poi c'è anche lo scenario appunto di cui stiamo parlando, il memorandum, un programma offerto a tutti i partiti, con Monti che invece resta fuori dalla mischia. Ma se entra nella mischia con quelle caratteristiche, è potenzialmente dirompente. Va bene, io allora intanto ringrazio Mario Aiello e Marco da Milano. Come vedete, opinioni diverse. In tutti i casi mi pare che la generosa illusione di chi costruisce dal basso tentando di parlare di programmi, e per questo era finito, per non dover stare né con Montezemolo né con Casini né tantomeno col PDL eccetera eccetera, sto parlando in piccolo di me, ma l'unico accenno che faccio in trasmissione, perché sapete che non ne parlo mai, ed è meglio così, perché altrimenti è giusto buttarmi fuori di qua. Però mi pare che l'impostazione è molto diversa, cioè una cosa dall'alto, Monti non è chiara, così si arriverà a un centrodestra europeo, tutto imperniato sulle persone, numeri, programmi e proposte, poco, ma io del resto lo so da una vita che mi illudo. Naturalmente così sarà una corsa all'ultimo minuto a fare listoni, mettendo insieme pezzi di esperienze, coerenze diverse, impraticabili eccetera eccetera. Per me è il contrario di come si fa destra, sinistra o centro su cose concrete, però naturalmente sono io che vengo da Marte. 9.39, 25 secondi, abbiamo con noi anche Marcello Sorgi, editorialista della Stampa, insomma testimone e giornalista di primissimo piano per tutte le direzioni che ha ricoperto, e anche a lui chiedo: ci fai capire un secondo come la pensi tu tra le diverse letture? Abbiamo tentato ai nostri ascoltatori di dirgli: da una parte c'è una lettura del Corriere della Sera che dice non sarà in lista l'ipotesi di un programma da offrire partiti, dall'altra c'è la lettura di Repubblica che dice la discesa in campo di Monti, il premier è tentato da una sua lista, la Stampa poi è quello che più tra i quotidiani mette a fuoco la delusione, il rammarico del Quirinale per questa piega politica di Monti, e la stampa avanza anche l'ipotesi che a quel punto il capo dello Stato potrebbe dire: non puoi gestire le elezioni, se lanci un appello, anche se non scendi direttamente in campo, ma lanci un appello e si sa già che te lo raccolgono pezzi di partiti e movimenti nuovi, e ti mette alla testa di un'ipotesi politica, il capo dello Stato forse deve esaminare l'ipotesi che si mette qualcun altro a gestire le elezioni. Tu come la pensi, Marcello? Ma io penso intanto... Credo che sia caduta la linea? Esattamente caduta la linea. Nel frattempo abbiamo qualche telefonata? No, non abbiamo telefonate da passare, quindi nel mentre lo stiamo richiamando, a me che cosa tocca dire? Che io vorrei che fosse chiaro a tutti coloro che nel frattempo stanno mandando sms dicendo: ah, ti piace l'IMU, paga l'IMU. No, ragazzi, non ci siamo capiti, state cascando di nuovo nella trappola dell'IMU. Io vi ho detto che se guardate qual è l'impatto più diretto delle cose da levare sono l'IRAP e i contributi sociali. Vi ho spiegato mille volte che sono 5 punti almeno di pressione fiscale da levare in 5 anni, quindi se voi cascate nell'idea che Berlusconi vi dice l'IMU e tutti quanti fate conto che lui ve l'ha levata, fate come volete, vuol dire che non avete capito molto negli ultimi 18 anni. Allora è venuta la linea con Marcello Sorgi. Marcello, stavi dicendo? Ma io penso che sicuramente la mossa di Monti ieri intanto introduce un elemento di chiarezza, perché finora eravamo ai si dice, al può darsi, mentre diciamo, questa è una notizia che viene direttamente da lui, anche se non è chiaro bene che cosa ha deciso, sono due cose molto differenti, perché se fa la lista è un conto, e se fa la lista, certo, anche l'ipotesi che tu dicevi prima, che si trovi in imbarazzo a gestire le elezioni come governo per l'ordinaria amministrazione, esiste. Se non fa la lista, se fa l'agenda, allora dovremmo piuttosto chiedersi che cosa viverà di questa agenda dopo 2 settimane di campagna elettorale come quella che siamo abituati a vedere, cioè uno fa l'agenda nel frattempo, cioè, perché poi la campagna elettorale è fatta di ondate che si sovrappongono, di temi, di issues che arrivano una sull'altra, quindi insomma l'agenda verrà presentata un giorno, poi 2 giorni dopo chissà di cosa si parla, quindi questo. Per la verità in passato ci sono state, per quanto riguarda la gestione delle elezioni, in passato ci sono state l'una e l'altra cosa, cioè ci sono stati i governi elettorali nella prima repubblica, cioè quando, per esempio quando successe il pasticcio della staffetta, no? Che peraltro ho visto è stata evocata in questi giorni, la staffetta, come se la staffetta ci fosse stata, invece non fosse stata la causa della fine di una legislatura con l'elezione anticipata, una delle più tragiche conclusioni della legislatura con la DC che vota contro il suo governo. Marcello, ma bisogna che ci rassegniamo della vecchia prima repubblica, ormai siamo in pochi a ricordare davvero quello che è successo. Sì, sì, sì, però vengono continuamente evocati dei precedenti, no? Cioè, come se quei precedenti, cioè è vero, non se li ricorda più nessuno, se uno li va a rivedere quelli sono, cioè non è che, la staffetta fu un disastro, cioè fu veramente un disastro, quindi secondo me bisogna ancora aspettare qualche giorno per capire cosa Monti vuol fare veramente, perché se fa una lista si troverà nel lagone politico contro tutte le altre liste, no? Quindi dovrà sottoporsi alla par condicio, avrà uno spazio pari a quello di tutti gli altri partiti, se fa un'agenda aiuterà probabilmente questi partiti del centro che hanno bisogno di aggrapparsi a qualcosa perché si trovano in difficoltà, si vota col Porcellum, il Porcellum è una legge maggioritaria, centrodestra contro centrosinistra, Berlusconi abbiamo visto che è in campo in modo molto rumoroso, quindi il centro in queste elezioni rischia di nuovo di essere pestato dai due contendenti. Io certo penso che se fa la lista sarà una novità grossissima, veramente grossissima. Però mi pare di capire che sei più dell'idea che non la farà. Sì, sono più dell'idea che non la farà, non perché non ne abbia intenzione, cioè trovo che la mossa di Monti di ieri segnala un suo vero desiderio di non vedere travolto il lavoro che ha fatto fino adesso, ma quando ragionerà sulle difficoltà del fare la lista, probabilmente si renderà conto che insomma, tra fare il capo di un governo tecnico ed essere un punto di riferimento ideale per liste fatte da altri e invece fare il capo di una lista, cioè di un partito che nasce in questi giorni, pensiamo solo alla raccolta delle firme. Ne so qualcosa. Faranno crepare per raccogliere il... Ne so qualcosa, sì, sì. Infatti, insomma... Per chi conosce la politica da vicino, questo, sappiamo che succedono delle cose che non erano previste, insomma, cioè, sembra facile passare dalla società civile alla politica professionale. Poi, non lo è per niente, no. Va bene. Allora, grazie a Marcello Sorgi, sentiamo adesso un po' di vostre telefonate. Eccoci qua, tornate con Jumores di Zien. Ieri mi hanno riferito che Berlusconi poi a un certo punto si è messo anche a parlare dicendo Giannino vuole questo, Giannino vuole quello, di là del fatto che Berlusconi citi me come leader politico è molto singolare. In ogni caso vi invito a diffidare di un Berlusconi portavoce di fermare il declino, no, non è così, non gli abbiamo attribuito, è una delle sue inevitabili tendenze di appropriarsi di cose che non sono sue. Del resto capisco, si è fidanzato con una 50 anni di lui e questo sono felice, io spero che sia sempre più in quella veste che la invitino in televisione, meno in quella politica. Detto tutto questo, avrete capito che autorevoli, molto più di me, collego dei giornalisti, danno le versioni più varie, diverse. Monti presenta una lista, Monti non presenta una lista, si limita a fare una dichiarazione in generale, che parli addirittura alle camere, perché all'inizio sembrava che parlasse in televisione, che era una cosa un po' caudillistica, invece farà un intervento alle camere in cui spiegherà il giorno dello scioglimento, non prima, questo suo desiderio, e dopodiché si vedrà, perché altri dovranno comporlo. E secondo me persone serie dovrebbero dire che non è su una persona ma è su delle cose, vediamo se dirà delle cose, se dirà delle cose precise su che cosa cambia rispetto a quello che abbiamo visto, cioè il tutto tasse, vediamo, se no sentite, non so cosa dirvi, perché almeno il PD vi dice che cos'è e io non sono d'accordo neanche lì. Vedremo, davvero, sentiamo voi come la pensate. Felice da Latina innanzitutto, prego Felice. Buongiorno innanzitutto, ringrazio il dottor Giannino. Io credo che sia un problema di rappresentanza politica in questo momento, di un'area, credo anche non tanto minoritaria nel paese, che in realtà si identifica con le istanze che proprio lei, dottor Giannino, sta portando avanti, cioè quello che non è possibile continuare un declino economico e fare rigore esclusivamente aumentando la pressione fiscale oltre ogni limite ragionevole. Che si pone il problema di ridurre il peso dello Stato, che si pone il problema di rilanciare l'economia perché è la parte privata dell'economia che può consentire di risollevare il PIL, e non vedo nessuna rappresentanza politica di quest'area, questo mi sembra il problema. Felice, io però ti dirò che anche in chi in questo anno ha confermato la linea che il tesoro decide da solo e mette solo tasse e non cede gli attivi pubblici, io... Ma perché devo dire che Monti ai miei occhi rappresenta l'inizio di un centrodestra europeo, come diceva adesso i colleghi che mi hanno preceduto? Cioè, io vedo che una linea, la linea della discrezionalità nelle mani della vertice della pubblica amministrazione, che dispensano la loro visione su che cosa sia il bene assoluto e benignamente e gelidamente dall'alto commentano qualunque critica con questa specie di sorrisetto, ma che cosa volete sapere voi che non siete mai entrati nella stanza vera dei bottoni? Che ai miei occhi è la quintessenza sotto la quale si celebra poi il distacco che c'è tra sta macchina pubblica e la sua inefficienza, perché poi i vertici tecnici del tesoro sono quelli che non ci mettono le mani nella macchina pubblica, capisci? Che ogni volta fanno come Maffeo Pantaleoni, che diceva che in un paese a disastro di finanza pubblica la risposta del somaro è alzare le tasse. Io la vedo un po' così, Felice. Ho sentito che anche tu, però il problema è che qui stiamo andando a elezioni in cui la scelta sarà: vi piace Monti personalmente rispetto a Berlusconi? A me sì, personalmente sì, ma come persona, come politica è la stessa dell'ultimo Tremonti, è la stessa, più dura, più rigorosa, ma è la stessa. Che volete che vi dica? Io così non riesco a ragionare, limite mio. Massimo da Milano, sentiamo Massimo come la pensa. Sì, buongiorno Oscar. Devo dire che io sono iscritto, non voglio mettere in imbarazzo, sono iscritto a fermare il declino, quindi adesso non so, cioè dico per cose che sono anche di vostro gradimento. Un aspetto che nessuno ha toccato è che in realtà questa operazione mi pare una grande operazione di riciclaggio, questo che mi preoccupa, cioè riciclaggio di tantissimi politici, perché un Monti che ti offre come propositore di un programma che può essere sottoscritto da tanti partiti, in effetti offre un grande assist a tutti quelli di questo Parlamento che si vogliono riciclare, su un Monti lavatrice. È una scialuppa di salvataggio ideale, no Massimo? Esatto, esatto. Ma è abbastanza grave, perché Se Monti, diciamo, ha fatto alcune cose bene, ma non ha fatto nulla in termini di tagliare la spesa pubblica e tantomeno i costi dei politici, riproponendosi come salvatore di una gran parte del Parlamento attuale, o di una buona parte, come potrà fare? Sarà imprigionato? No, l'unica scusa che ha oggi cos'è? È la scusa che è stato imbrigliato da questo Parlamento, che è parzialmente vero. Ma domani si troverà esattamente nella stessa situazione. Bravo Massimo, perché anche secondo me questo aspetto della lavatrice è non trascurabile, anzi di fondo, perché qui perché se uno fa un appello così tutti vanno e si vede, no? Si vede. Quante prime file del PDL che hanno brillato in questi anni per la loro intelligentissima funzione di equilibrio rispetto alle sciocchezze, per non dire altro, di Berlusconi eccetera eccetera, o improvvisamente adesso si scoprono montiane pensose dei destini di un centrodestra europea. Massimo, per favore. E quindi secondo me Massimo vi aiuta a riflettere su un punto che non è secondario. Francesco da Roma invece che pensa? Buongiorno Oscar, la mia domanda è: come che idea si è fatto del tentativo generoso e forse anche un po', come dire, disperato di Giorgia Meloni di all'interno della follia dell'attuale PDL, di quello che ne è rimasto? E poi non so se vede qualche ipotetico punto di contatto futuro tra loro, sempre che si capisca bene quello che vogliano fare, e il movimento di fermare il declino. Francesco, non è all'ordine del giorno, ma ti rispondo. Io ho passato il 2011 dicendo a chi conoscevo dal PDL: dovete lanciare segnali nettissimi di discontinuità rispetto a una roba che è guidata con procedure che rende incompatibile capire tra voi tutti se volete lanciare un ponte verso il futuro, cioè significa discontinuità totale con Berlusconi, i suoi nominati, il suo stile di mettere uno e poi devastargli il terreno sotto i piedi. Non è avvenuto niente di tutto questo. Il signor Angelino Alfano ne porta le evidenti fratture multiple, per così dire. Ora è molto tardi. Crosetto, Giorgia Meloni, secondo me, se lanciano da soli insieme a qualcun altro un segnale che dice discontinuità interna, dall'altra parte la via non è quella tutta tasse di Monti, dall'altra parte abbiamo la responsabilità di aver illuso e deluso gli italiani, chi comandava il PDL, loro non erano in posizione di comando, la mia opinione è che fanno una cosa molto utile, molto molto molto molto molto, sottolineo 5 volte molto utile, sicuramente ai miei occhi 100.000 volte più utile di chi improvvisamente si scopre montiano del PDL, perché questa è una roba che mi fa sorridere, perché se davvero pensavano a un centrodestra più europeo e moderato, dovevano far vedere nel PDL i loro no a Berlusconi, le loro critiche a Berlusconi. Crosetto e la Meloni hanno criticato sia Tremonti che Monti, e da questo punto di vista sono più credibili, perché non erano né in prima né in seconda né in terza fila, eppure essendo stata Meloni ministra, sì, ma della gioventù, e Crosetto sottosegretario alla difesa, apposta perché aveva rotto troppo le scatole in Piemonte nel suo partito. Quindi da questo punto di vista io non nego in pubblico quello che penso in privato e dico loro da tempo. C'è molto da fare se loro vanno avanti su quella strada, e io li incoraggio a continuare. Sentiamo Raffaele da Napoli che pensa. Pronto? Raffaele, dici. Io volevo solamente sottolineare che secondo me in questo momento uno dei problemi più critici per l'Italia è anche il ruolo della stampa, al di là appunto della sua posizione che aiuta a pensare meglio a quelle dinamiche che si stanno sviluppando a questo punto nella politica. Io credo che ci sia una si tace totalmente su quelle che possono essere le vere ragioni di fondo di Monti in questo momento. È inspiegabile questo cambiamento rispetto a quello che era stato in origine la propria voglia di entrare a servizio dello Stato. Oggi noi ci troviamo in una situazione in cui mi sembra che sia un giocatore di poker con delle ottime carte che vuole sempre giocare a rialzo. Quasi era percetto la sua candidatura alla Presidenza della Repubblica, oggi non vedo perché dovrebbe candidarsi a questo, fare da paravento a Casini, a Fini o a qualche Raffaele, il problema è che naturalmente il tempo cambia, gli uomini, cambia le intenzioni, e ne rivela le incoerenze. Questo è il punto, sono un po' d'accordo con te. Benissimo, come vedete non abbiamo grandi certezze da offrirvi, ma molti dubbi, sì, molti dubbi per queste procedure non chiare. A domani.